Siamo con Magda Mercatali, autrice e regista dello spettacolo Gli Dèi dell'Olimpo, al Teatro Belli a Roma dal 15 al 17 giugno, spettacolo che chiuderà la stagione. Magda, benvenuta. Ci Grazie, buongiorno a tutti. racconti di questo lavoro? Allora, io sono un'attrice, ma da 10 anni circa sono una volontaria di questa associazione che si chiama CDS, Casa dei Diritti Sociali, che si occupa del sostegno delle persone svantaggiate e vulnerabili, ma soprattutto si occupa di migranti in termini di integrazione linguistica e di inclusione sociale. Io insegno italiano, insieme a tanti altri volontari, a migranti. La nostra scuola è aperta ininterrottamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell'ambito delle attività, scusate ma sono molto raffreddata, nell'ambito di questa attività di insegnamento, facciamo anche delle altre attività per l'integrazione e la socializzazione, tra cui un laboratorio di teatro che io faccio da 6 anni, portando ai miei migranti la conoscenza della cultura occidentale. Ho portato Shakespeare, Giulietta e Romeo, ho portato la poesia americana del Novecento, l'antologia di Sponheimer, ho portato Chekhov, La domanda di matrimonio, e ho scritto ora questo testo che si chiama Gli Dèi dell'Olimpo per affrontare il tema sensibile della religione. Sì. Ci si immagina una normale giornata nell'Olimpo ai tempi nostri tra degli dèi litigiosi, gelosi, facili all'ira, alla commozione, potenti e temibili, ma che sono soggetti a debolezze come i poveri abitanti della terra, ai quali guardano con pietà, con piacimento, però anche con un pizzico di crudeltà perché gli uomini non hanno saputo avversi con, diciamo, intelligenza del libero arbitrio che gli hanno donato con generosità. Io ho 12 attori di tutto il mondo: Giove del Biafra, Marte e della Georgia, Nettune del Senegal, Apollo del Bangladesh, Vulcano della Nigeria, Cupido della Guinea, Giunone è del Perù, Marta è dell'Ucraina, Mercurio del Marocco. Insomma, ho 12 ragazzi e ragazze di tutto il mondo e questo devo dire che è un'esperienza meravigliosa. Quando ho iniziato il laboratorio, circa 6 mesi fa, alcuni di loro non parlavano una parola di italiano, non capivano niente, e adesso recitano in italiano, quindi pensate che sforzo che hanno fatto e la soddisfazione anche. Sì. Rispetto al tuo testo, quanto hanno messo del loro? Eh beh, sai, è un work in progress, quindi si parla di religione, di cose, intervengono sempre, io aggiungo, tolgo, quindi ci hanno messo anche del loro, senz'altro. Sì, questa è una prima e che percorso farà questo spettacolo? Niente, 3 repliche poi resta lì. Io sono orgogliosa di dire che lo spettacolo si autofinanzia tramite sottoscrizione che ho fatto tra amici, parenti, anche volontari, perché sono orgogliosa di dire che a questi ragazzi comunque diamo una piccola paga, perché hanno lavorato e perché il lavoro è sacro e va sempre retribuito. Quindi questi soldi, anche i soldi dell'incasso, vanno a loro. Sì. Magda, il corso che tieni di teatro, che periodo copre e quante persone coinvolge? Circa sempre 12 persone, Sì. perché non è un corso di teatro, è subito finalizzato a uno spettacolo, quindi Ok. non è una scuola di teatro, è un laboratorio per quello determinato spettacolo. Per tutto il periodo invernale? Sì, abbiamo iniziato all'inizio di gennaio e debuttiamo adesso, quindi sono 5 mesi abbondanti, 5 mesi e mezzo, con una frequenza di 2 pomeriggi alla settimana. Senti, ci vai. Abbiamo provato in un posto meraviglioso perché ovviamente nessuno ci ha dato un posto per provare, tutte le istituzioni, mi sono rivolta a tutti, nessuno ci ha dato uno spazio se non a pagamento. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un padre gesuita che è il superiore della chiesa di Sant'Ignazio e lui ci ha fatto provare per il secondo anno consecutivo nella meravigliosa cornice dell'oratorio del Caravita. noi abbiamo provato in chiesa con questo prete meraviglioso, quando io mi ha fatto vedere lo spazio, ho detto: ma padre, come facciamo a provare qui? Noi dobbiamo urlare, cioè non si preoccupi, quando voi provate prendo il Santissimo e lo sposto in sacrestia, quando avete finito riprendo il Santissimo e lo riporto sull'altare. E quindi noi abbiamo provato all'oratorio del Caravita, grazie a padre Massimo Nevola. Magda, siamo laici, la nostra è un'associazione laica. Sì. In chiusura, Magda, ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? Casa dei diritti sociali. C'è un Casa sito internet. Casa dei diritti sociali, comunque, CDS. Ok, perfetto. Ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Gli Dèi dell'Olimpo al Teatro Belli a Roma dal 15 al 17 giugno. Un ringraziamento e un saluto a Magda Mercatali, che lo ha scritto e diretto. Magda, grazie, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a voi e spero che veniate numerosi. Bene, arrivederci.